complessiva nel periodo che si affronta, vale a dire quello che in Austria è il Formers e quello che in Lombardia e in Veneto è la Restaurazione, il periodo dal 1816 al 1848. Nella letteratura del tempo, in particolare in un volume scritto da Franz Hartig, un alto funzionario austriaco, Franz Hartig, ricordo, era stato governatore in Lombardia e poi governatore anche in Austria Inferiore, in un volume dal titolo Genesi della Rivoluzione in Austria nel 1848, si affronta il problema della crisi dello Stato. Hartig, che già ieri incidentalmente è stato ricordato da Mozzarelli, individua nelle riforme settecentesche, nelle riforme ammodernatrici, l'origine di una crisi generale che investe per tutto il periodo del Formers lo Stato e la società delle province ereditarie austriache. In sostanza Hartig sostiene che dissoltosi l'antico ordine amministrativo che aveva regolato la vita sociale delle province ereditarie fino all'inizio delle riforme del Settecento, dissoltosi questo antico ordine, il nuovo meccanismo amministrativo proposto in forma ancora embrionale, in forma non perfettamente compiuta dalle autorità austriache, e questo nuovo sistema amministrativo ha dato prove di scarsa efficienza, di scarsa validità. In particolare, utilizzando una terminologia particolarmente interessante, Hartig sostiene che al vecchio principio della personalità di rapporto tra i ceti privilegiati e l'imperatore, che aveva sorretto l'equilibrio amministrativo in precedenza, non si è sostituito un nuovo concreto modello di funzionamento che sia in grado di colmare gli spazi che si creano quando l'apparato di Stato comincia ad investire territori qualitativamente e quantitativamente sempre più ampi del tessuto sociale. Per Hartig, rottosi l'ordine antico, si tratta di formulare in concreto modifiche tecniche, sistemazioni particolari che consentano all'ordine nuovo delle istituzioni di funzionare in maniera efficiente. In particolare Hartig sottolinea come la piaga strutturale dell'amministrazione asburgica durante il Formers sia costituita dalla mancanza di responsabilità che un po' a tutti i livelli dell'amministrazione rende nel complesso inoperante l'attività della macchina statale austriaca. La Österreichische Stadtmaschine, come la chiama Hartig, non funziona perché in sostanza la mentalità che la impregna, al di là delle singole attuazioni tecniche in cui si concreta, la mentalità che la impregna è più consona forse al mondo antico di quanto non lo sia al mondo moderno. Vale a dire, c'è una mentalità di tipo paternalistico, condensata in modo particolare, Hartig fa questo esempio, nel diritto che ogni suddito ha di intervenire contro le decisioni delle autorità intermedie dell'amministrazione, di dunque poter porre petizione all'imperatore. Questa mentalità paternalistica, che individua un tipo di amministrazione tutoria piuttosto che esecutiva, costituisce una grossa piaga ed impedisce in effetti un funzionamento adeguato. In sostanza, per Hartig non è ancora perfettamente compiuto quel guado verso la razionalità scientifica dell'amministrazione moderna che, una volta cominciata a percorrere la strada delle riforme, non si può non compiere se si vuole che poi a una nuova realtà istituzionale corrisponda anche un complessivo funzionamento della società complessivamente efficiente. In altri autori, già ricordati anche questi ieri da Mozzarelli, per esempio Charles Isfield, ma in realtà Karl Postel o anche Victor von Anden-Werburg, il problema della crisi dello Stato viene ugualmente affrontato con un'ottica di sapore più reazionario, vale a dire si propone una soluzione che oltre alla malattia, cioè alla crisi dello Stato, elimini anche il malato, vale a dire lo Stato stesso. Si propone un ritorno indietro, un ritorno all'antico rapporto personale tra ceti e imperatore che ha regolato in precedenza la vita sociale dell'impero asburgico. In un altro autore ancora, che è attivo all'inizio della Restaurazione, Lichtenberg, autore di un volume tradotto anche in italiano nel 1819, Saggio di una statistica dell'impero asburgico, il problema cambia completamente di ottica visuale, vale a dire si dà per scontata la legittimità dell'operato dello Stato, ed invece quello che interessa è affrontare tecnicamente la soluzione del problema stesso. Lichtenberg a questo proposito è molto esplicito. Lichtenberg è un allievo di Sonnenfels, si è formato negli ultimi anni del Settecento alla scuola viennese. Lichtenberg sostiene che per superare la crisi dello Stato è necessario andare avanti, vale a dire perfezionare in senso scientifico il funzionamento dell'operato statale. In particolare la sua proposta si concreta nella costituzione di una specifica facoltà di scienze politiche che sia in grado di formare in maniera strettamente collegata all'operato dello Stato un nuovo ceto di funzionari, un nuovo gruppo di funzionari che siano in grado, sulla base dell'acquisizione della scienza, di dare una risposta alle manchevolezze strutturali dello Stato. Dunque, in maniera molto esplicita, per Lichtenberg, l'identificazione tra scienza e Stato, di sapore ancora illuministico, si concreta in una precisa proposta operativa che, è il caso di sottolineare, a tutto il termine del Formers rimane ancora irrisolta, vale a dire non viene assolutamente data una risposta nel senso indicato da Lichtenberg. Se proviamo a riassumere, dopo questa breve introduzione, sinteticamente quale possa essere la situazione dello Stato asburgico in questo periodo nelle province ereditarie, potremmo dire, con una definizione forse un po' ad effetto, che questo Stato si presenta come una specie di puntello avanzato di una razionalità di tipo nuovo, che però vive ancora in una fase di grossa ambiguità. Un puntello avanzato, sicuramente più avanzato delle sollecitazioni che provengono dalle classi dominanti della società, in particolare dall'aristocrazia fondiaria, che è ancora saldamente dominante nel tessuto sociale, anche se è stata espropriata di un proprio spazio istituzionale. Un puntello avanzato, dunque, carico di ambiguità e tendenzialmente un puntello che è più avanti della società da cui è espresso. In sostanza, quando autori come Andrian accusano lo Stato asburgico di essere una macchina senza spirito, io penso che intendano dire che non c'è alcun momento di consenso tra l'attività della burocrazia statale asburgica e gli interessi, le esigenze delle classi socialmente dominanti. Vale a dire, si ha una sorta di scissura tra le forze dominanti a livello sociale e tra l'operato concreto dell'attività amministrativa dello Stato. Ecco, come buona parte degli inviati speciali asburgici che risiedono in Italia nel biennio dal 1814 al 1816 avranno modo di osservare, questa crisi della società e dello Stato nelle province lombardo-venete si presenta con caratteristiche estremamente dissimili. Il primo a richiamare esplicitamente i termini di questa differenza è Enrico Bellegarde, commissario plenipotenziario speciale, il quale governa Milano nel biennio 14-16. Bellegarde, come anche Bubna, che è l'altro plenipotenziario austriaco presente a Torino, il quale comunque fa anche missioni nello Stato Pontificio ed ha modo, in senso generale, di constatare il portato delle riforme amministrative napoleoniche nelle province italiane. Bellegarde, dunque, Bubna, ed ancora l'arciduca Ranieri, quale compie un viaggio in Italia nell'inverno 1816-1817, quando non è ancora viceré del Regno Lombardo-Veneto, un viaggio informativo semplicemente. Ecco, da tutte queste voci esce a tono concorde un atteggiamento di indubitabile ammirazione per le strutture amministrative, per il funzionamento concreto dello Stato che questi funzionari austriaci trovano facendo l'ingresso in Italia al seguito delle armate subito dopo il crollo del regno napoleonico, dei vari regni napoleonici. Quello che pare di poter sintetizzare dalla testimonianza di queste voci è che in sostanza per molti di questi intelligenti funzionari austriaci trovarsi davanti a una realtà amministrativa di tipo moderno, di tipo esecutivo, compiutamente realizzata, significa trovarsi davanti alla soluzione di buona parte dei problemi che investono invece l'operato complessivo della macchina amministrativa asburgica. Il problema di fondo dell'inserimento delle province lombardo-venete ex napoleoniche all'interno dell'impero asburgico sarà proprio quello di riuscire a uniformare senza stridenti contrasti questa evidente difformità istituzionale e sociale che subito si manifesta evidente non appena il reinserimento avviene. Le forze sociali lombarde si presentano all'appuntamento con la nuova realtà asburgica divise in due frazioni principali. Tutti, in un certo senso, in Lombardia, per quanto riguarda il Veneto, ecco, mi devo limitare a un inciso e a qualche accenno perché è una situazione che dal punto di vista della ricerca conosco meno, ma per quanto riguarda la Lombardia si hanno due filoni che guardano all'indietro. Un filone che è quello della nobiltà guarda, e lo ripete esplicitamente in varie occasioni, ai termini del rapporto tra Milano e Vienna anteriore al 1796, ma non solo, guarda anche a un modello di amministrazione interna, dunque a un modello di rapporto tra centro e periferia, di accentramento complessivo, che si richiama chiaramente ai fasti dell'ancien regime. Si possono citare a questo proposito vari episodi. Quello che interessa mettere a fuoco in sostanza è questo. Già ieri qualcuno ha accennato al caso della Baviera, che una volta ringlobata nell'impero non si vede restituito il tessuto connettivo della signoria patrimoniale che aveva avuto prima dell'invasione napoleonica. Ecco, in questo senso nelle province lombardo-venete, che costituiscono un'area territoriale molto più vasta e per molti aspetti anche molto più problematica di quanto non lo sia l'area bavarese, la situazione è di questo tipo, vale a dire anche nel Lombardo-Veneto tutto quello che è risultato delle riforme giuridiche e sociali scaturite dall'esperienza civile della rivoluzione francese viene conservato. Questo cosa significa? Significa che all'interno dell'impero si viene a creare un'area, quella lombardo-veneta, in cui la situazione sociale è una situazione sociale modellata su principi che si situano al di là della frattura del 1789. In sostanza chi da Vienna giunge a Milano, a Venezia, nei primi anni della Restaurazione ha modo di verificare concretamente la differenza che passa tra riformismo che è la pratica seguita nel plesso imperiale, e rivoluzione, differenza che passa dal punto di vista delle istituzioni giuridiche, delle istituzioni sociali, delle istituzioni amministrative. Si diceva che una frazione delle forze sociali lombarde, la nobiltà, si richiama esplicitamente al periodo precedente al 96, cioè al periodo della marcia indietro leopoldina, e richiede dunque uno spazio istituzionale specifico ad essa soltanto riservato. Ma riaccendendosi nell'impero in quegli anni, finita anche il periodo dell'emergenza bellica, lo scontro tra sovrano e forze nobiliari, era evidente che sarebbe stato quantomeno improbabile che da Vienna si rispondesse a queste sollecitazioni accontentando un desiderio di restituzione di peso da parte delle forze nobiliari in un paese in cui il diritto di conquista esimeva dal rispetto di tante situazioni di diritto consolidato che invece continuavano a costituire un momento trainante della struttura sociale dell'impero. Uno spazio dunque per nobili, nel senso che intendevano le forze sociali locali che se ne facevano promotrici non tornò più nel Lombardo-Veneto. Non tornò più o quantomeno non divenne, ci fu una frizione forte, una fase di ambiguità in modo particolare all'interno di un specifico organismo amministrativo, le congregazioni provinciali e congregazioni centrali, che vennero istituite ex novo con un formale richiamo ai nomi degli antichi consigli nobiliari dell'ancien regime lombardo nel 1816, al momento dell'instaurazione del nuovo sistema. Ecco, per le forze nobiliari che confidavano di trovare in queste istituzioni un momento di arroccamento, ma anche di concreta iniziativa, di concreto spazio amministrativo, di concreto spazio politico nei confronti della macchina statale, per queste forze l'esperienza degli anni segnò una forte delusione, vale a dire se ancora al momento della prima attuazione, nel 1816, rimaneva un'ambiguità possibile tra enunciato legislativo, l'esperienza di alcuni anni con la prassi amministrativa colmò questa ambiguità. Si rese chiaro che le congregazioni non erano più assolutamente le vecchie congregazioni settecentesche, non erano state preordinate per essere un momento di esercizio di potere, esercizio di egemonia effettiva all'interno dello Stato Lombardo-Veneto, e in tal senso le forze che si insediarono nelle congregazioni, rappresentando, come disse esplicitamente in un rapporto del 1820, Sardagna, che era un trentino, un inviato speciale di Metternich per verificare la situazione dello spirito pubblico in Lombardia, nelle congregazioni finirono per confluire i rappresentanti della vecchia nobiltà ancorata a una concezione del mondo e del potere di stampo antico, e all'interno di queste congregazioni esercitarono nient'altro che resistenza passiva. Una resistenza passiva che è stata illustrata molto bene da Berengo nel suo libro sull'agricoltura veneta a proposito per esempio del censimento, vale a dire quando questi uomini ebbero la possibilità concreta di esercitare un minimo spazio di iniziativa, lo fecero senza mai smentire la loro composizione sociale e soprattutto la loro visione politica, decisamente conservatrice, decisamente reazionaria, che poi le caratterizzò per tutto il corso di quest'epoca. In tal senso gli episodi per cui le congregazioni, sia la Veneta che la Lombarda, sono rimasti più famosi poi nel corso della storiografia risorgimentale italiana, vale a dire la famosa mozione Nazzari del 1847 alla Congregazione Centrale di Milano e quella Morosini, sempre del 1947, alla Congregazione Centrale di Venezia, mozioni che sono volute indirizzare da parte di molta storiografia passata in una dimensione già di tipo risorgimentalistico, insomma nazionalitario, questi episodi si collocano nettamente a margine di un'attività pluridecennale orientata in tutt'altro senso, cioè orientata come resistenza passiva. E oltre a vari episodi più o meno già riferiti da molta della bibliografia risorgimentale sull'argomento, si può citare una supplica stilata nel 1825 dalla Congregazione Centrale Lombarda in occasione della visita in Lombardia di Francesco I, supplica nella quale si chiedeva esplicitamente e a distanza di 10 anni dall'inizio del nuovo corso il ritorno all'anzian regime su due piani: diminuzione di intensità nel rapporto di collegamento tra Milano e Vienna, maggior spazio alle forze nobiliari all'interno dell'amministrazione sia lombarda sia veneta. E scollata in sostanza dai ranghi della pubblica amministrazione, in parte defluita per disillusione propria, in parte per assodata verifica della propria incapacità, la nobiltà lombarda finì per non lasciare intentata una minaccia che era velatamente inserita in questa supplica di cui ho parlato adesso. Vale a dire, in questa supplica si diceva anche se non viene dato un adeguato spazio istituzionale ai rampolli della nobiltà, sicuramente l'ozio, mi pare che siano queste le parole testuali, l'ozio e la pigrizia daranno frutti cattivi. Ecco, e magari richiamandosi in parte ancora a quanto ha detto Mozzarelli ieri e da quanto anche emergeva a proposito del Settecento dalla relazione di Capra, io penso che con una forzatura che mi pare legittima in fondo in un campo storiografico orientato in una direzione esattamente opposta, si potrebbe sostenere che questa minaccia si tradusse in forme concrete nella Lombardia della Restaurazione con modalità piuttosto ambigue, vale a dire quello che intendo sottolineare è che a mio parere esiste una notevole continuità tanto di uomini quanto di forme concrete di operazione tra la vecchia opposizione cetuano-nobiliare alle riforme ammodernatrici settecentesche e la nuova opposizione nobiliare-liberale dell'età della Restaurazione. Per esempio, chi legga le memorie di Federico Confalonieri, che è una delle figure classiche della martirologia italiana e che comunque è anche una delle più significative di questo processo di mutazione generazionale in Lombardia, non può non rilevare come accanto ai temi di progresso economico, di attività filantropica propugnati dal nobile milanese, non compaia anche una visione del potere politico e della società improntata ad un carattere fortemente aristocratico. In particolare, a me pare rivelante, nelle memorie di Confalonieri, il colloquio con Metternich sulla strada per lo Spielberg, da cui emerge la comune condanna di questi due uomini della plebaglia democratica e si ripropone in fondo la società aristocratica basata magari su criteri nuovi, su meccanismi nuovi, ma comunque fortemente aristocratica, fortemente sì, ma comunque fortemente regressiva. E del resto questo segno regressivo, conservatore del liberalismo italiano farà poi sentire, come ben noto, tutto il suo peso nel corso del fenomeno risorgimentale italiano. Chiariti comunque i limiti dello spazio per i nobili, per i notabili, chiarito il profilo di questa sostanziale sconfitta delle forze nobiliari lombarde, è opportuno individuare in che modo in concreto si realizzi la mutazione amministrativa nelle province lombardo-venete dal periodo del regno napoleonico al periodo del Lombardo-Veneto, quindi al periodo dell'inglobamento nella compagine asburgica. In particolare è interessante analizzare un complesso carteggio occorso nel 1816-17 fino al 19 in occasione dell'istituzione delle delegazioni provinciali lombarde. Delegazioni provinciali sono l'autorità amministrativa periferica dell'apparato di Stato, parziali eredi delle prefetture napoleoniche ed equiparate all'interno del sistema amministrativo asburgico ai Kreisämter. Ecco, equiparate ai Kreisämter si dice, però dai Kreisämter strutturalmente molto dissimili per un semplice motivo, vale a dire per la diversità del tessuto sociale che l'apparato di Stato nel suo complesso doveva amministrare da un canto nelle province ereditarie, dall'altro nel regno lombardo-veneto. Chi abbia una minima pratica dei carteggi dei funzionari austro-lombardi dei primi anni della Restaurazione sa bene come, dalla voce di questi funzionari, in gran parte ex funzionari napoleonici, confluiti poi nelle file dell'amministrazione asburgica, emerga costante il senso, la coscienza teorica anche molto chiara, della differenza di tessuto sociale che passa tra Lombardo-Veneto e province ereditarie, e non solo, della necessaria differenza di attività amministrativa che da queste due realtà è richiesta. Ribadiranno a lungo i funzionari del governo di Milano, la Lombardia non è equiparabile all'Austria inferiore o all'Austria superiore o tantomeno alla Galizia, dunque l'entità dell'intervento amministrativo in Lombardia e nelle altre province è completamente diversa. Il dibattito, il litigio si potrebbe dire, tra Milano e Vienna a proposito dell'organizzazione delle delegazioni era nato in seguito alla proposizione, anzi all'imposizione da parte di Vienna per la realtà lombarda del modello tecnico di funzionamento dei Kreisämter, cioè dei capitanati circolari delle province ereditarie. Gli uomini del governo di Milano rilevarono immediatamente il senso profondo della differenza e dissero a chiare lettere: in una realtà come la nostra, che è caratterizzata da un'estrema divisione della proprietà fondiaria, dalla realizzazione già compiuta di un censimento, cosa che non esiste invece nelle province ereditarie, caratterizzata ulteriormente dal punto di vista politico dall'esperienza del tutto nuova della Rivoluzione francese, un'esperienza che ha prodotto una disintegrazione della vecchia costituzione della società e ne propone ora una riformulazione nuova in termini non più di ceti di corporazioni ma in termini di classi sociali. In un paese in cui le masse sono abituate all'esperienza della politica, un paese in cui le masse incalzano continuamente l'amministrazione, hanno delle pretese precise nei confronti di questa amministrazione, sono coscienti dei propri diritti, oltre che dei propri doveri, non è possibile proporre un modello organizzativo analogo a quello vigente nelle province imperiali. Vale a dire, gli uomini del governo di Milano punteranno in modo particolare l'attenzione sulla rivoluzione giuridica, sul rovesciamento dei rapporti giuridici e sociali, sull'azzeramento della società, vale a dire sull'eliminazione giuridicamente sancita di qualsiasi diritto privilegiato che ha avuto luogo nelle terre d'esperienza napoleonica, e faranno scaturire da questa mutazione profonda del tessuto sociale una necessaria mutazione del tessuto istituzionale, vale a dire la necessità di avere un apparato di Stato che funzioni improntato a criteri esecutivi piuttosto che a criteri tutelari. Questa è una differenziazione che uscirà da varie voci. Per esempio, Johann Springer, quando scrive la sua statistica dell'impero d'Austria e quando tratta in modo particolare del funzionamento dei capitanati circolari, dei Kreisämter, avrà parole molto chiare al proposito. Dirà: questi uffici hanno sotto di sé signorie patrimoniali, magistrati e commissari distrettuali. Al contrario, le delegazioni lombardo-venete hanno sotto di sé soltanto commissari distrettuali. Questo cosa significa? Significa che ci si trova davanti, da un lato, alla vetustà di tessuto sociale incarnata in maniera emblematica dall'istituzione della signoria patrimoniale, dall'altro alla novità di un tessuto sociale, prima che amministrativo, completamente riproposto su basi nuove. Un tessuto sociale che impone stimolazioni molto più intense all'apparato di Stato di quanto non avvenga invece nelle province ereditarie. È interessante notare come per Springer l'analisi della signoria patrimoniale non si limiti semplicemente all'individuazione dell'entità amministrativa costituita dalla signoria patrimoniale. Per Springer, al contrario, lo dirà a parole esplicite in questa sua statistica dell'impero, alla signoria patrimoniale corrisponde anche, dal punto di vista sociale, l'affermazione di un principio di ordine generale, di stabilità, di fissità dei ruoli, impregnato del vecchio paternalismo, paternalismo che in fondo è una categoria logica, oltre che amministrativa, sociale, che fa parte del mondo dell'ancien regime, non fa più parte della società moderna, in cui tutto viene ridefinito su basi precise, razionali, scientifiche. Punterà il dito sul paternalismo che diffonde la sua atmosfera sociale all'interno di gran parte dei territori delle province austriache. E questo paternalismo risulterà per Springer la base logica che garantisce la stabilità sociale nelle province austriache. Per converso, Springer noterà come, accanto a indubitabili segni di progresso istituzionale nelle province italiane, segni di progresso che si condensano per esempio nella densità di accademie, associazioni scientifiche o ancora nella densità di pubblici funzionari rispetto al numero complessivo della popolazione, o ancora in altri fenomeni che comunque rimandano tutti a quella che è la caratteristica strutturale più significativa della realtà lombardo-veneta nel complesso dell'impero in questo periodo, vale a dire all'urbanesimo, Springer noterà come il paternalismo che garantisce la stabilità sociale nelle province austriache, non esiste più nelle province lombardo-venete. Non esiste più, ed infatti accanto a vari primati sociologici positivi, in un certo senso, delle province lombardo-venete, esiste un pandan negativo, costituito per esempio dal grande numero di malfattori e di ladri. Grande numero di malfattori e di ladri che è reso possibile, da un lato, in seguito al ribaltamento dei vecchi istituti di stabilità sociale incarnati dall'ansia regime, dall'altro, come accennato, anche da questo fenomeno della forte concentrazione urbana delle terre italiane. L'urbanesimo nella storia d'Italia ovviamente non è un fenomeno nuovo, risale a secoli e secoli indietro. Quello che però mi interessa mettere a fuoco è questo, vale a dire che in un periodo di sperimentazione e prova, di primi tentativi di concreto funzionamento dello Stato moderno, un'amministrazione tutto sommato antica, vale a dire improntata a principi paternalistici, tutelari, come quella asburgica, se riesce malamente, tutto sommato, a reggere, trovandosi di fronte a un tessuto rurale, salta completamente, cioè rivela in maniera evidente tutte le sue manchevolezze strutturali, quando si tratti di affrontare l'amministrazione della città. La città è una realtà estremamente più complessa da amministrare di quanto non lo sia la campagna, ancora di più di quanto non lo sia la signoria fondiaria, ed impone alle autorità amministrative una rapidità di esecuzione, una sveltezza di movimento, una intensità di diffusione che non ha nessun paragone possibile con quella delle restanti realtà imperiali. Riassumendo, potremmo dire che la difformità lombardo-veneta all'interno dell'apparato asburgico dell'impero in questi anni si riassume in questi due punti, vale a dire compiutezza di una rivoluzione giuridica e sociale che non ha invece riscontro nel resto dell'impero, forte concentrazione urbana e stimoli che da questa realtà urbana pervengono alle sfere amministrative. Se ci sforziamo di, allora a questo punto, cercando di essere breve, di non considerare un semplice dato coloristico, ma piuttosto una nota strutturale, vale a dire che riguarda l'effettivo funzionamento interno della macchina statale, quell'aspetto di lentezza che d'improvviso piomba sugli uffici lombardo-veneti nel corso del trapasso dal regime napoleonico all'inserimento nella compagine imperiale, se ci si sforza ugualmente di non individuare come semplice nota di protesta nazionalitaria la mancanza di responsabilità che moltissimi funzionari austro-lombardi, comunque lombardo-veneti, lamenteranno come portato dell'inserimento del Lombardo-Veneto nell'impero, e la si confronta con una parte di quel discorso di Spring, di Hartig, mi scuso, cui ho accennato all'inizio del discorso, io penso che si possa trarre almeno una conclusione, vale a dire che una conclusione valida non soltanto per Lombardo-Veneto, ma in tendenza un po' anche per l'impero. Vale a dire che dall'esperienza lombardo-veneta scaturisce in modo particolare come punto di ebollizione massimo, in fondo, una tensione tra esigenze della società e inadeguatezza della risposta statale, che anche nel resto delle province imperiali, come emerge dal testo di Hartig, esiste comunque. In particolare il problema lo si potrebbe impostare in questa maniera, vale a dire, se per Hartig la deresponsabilizzazione, il permanere di carattere paternalistico, tutto in fondo nell'impero fa capo all'imperatore, saranno magari esagerate anche le descrizioni o gli esempi citati da Hartig per illustrare questa sua tesi, vale a dire il famoso esempio dell'incredibile lentezza, della paralisi, della stasi in cui si ribatte l'amministrazione imperiale per il fatto che ogni suddito ha diritto di petizione nei confronti dell'imperatore, quindi ha diritto di verificare l'operato di tutte le autorità amministrative periferiche. Sarà, non nego, probabilmente un'esagerazione. Però, se si verifica che anche nel Lombardo-Veneto questo aspetto della lentezza, della paralisi, della stasi occorre, capita effettivamente, dopo un'esperienza amministrativa improntata invece ad un aspetto di iperattivismo, di iperesecutività, cioè l'esperienza amministrativa napoleonica, pare logico dedurne che lentezza, stasi, aspetti coloristici, folcloristici, non sono poi in fondo così folcloristici, ma sono effettivamente aspetti di struttura. Sono aspetti di forme amministrative, oltre che di principi amministrativi. È paradossale vedere come buona parte dei funzionari lombardo-veneti ex napoleonici lamenteranno come una realtà concretamente perduta, non tanto o non soltanto il rapporto di dipendenza di Milano da Vienna, ma anche la perdita di alcune specifiche forme amministrative fondate sulla responsabilità, sulla rapida esecutività, sull'adeguato funzionamento del meccanismo delle istituzioni rispetto alla società, perdita che occorre con l'inglobamento nello Stato imperiale. Accade così, per concludere, che inserita in una realtà amministrativa e burocratica ancora dibattentesi in un guado irrisolto tra spirito amministrativo antico e spirito amministrativo moderno, anche la realtà lombardo-veneta, che pure ha conosciuto di recente un'esperienza di rigogliosa crescita dei meccanismi amministrativi e di concreta operatività di questi meccanismi, si impregni di quanto dello spirito antico permane nell'amministrazione asburgica e paradossalmente si blocchi. Ecco, quello che è significativo rilevare è che accanto alla protesta contro Vienna di tipo nobiliare, che ho accennato poc'anzi, esiste anche, si configura con caratteristiche radicalmente diverse, una protesta di buona parte dei funzionari che hanno conosciuto con l'esperienza del Regno d'Italia napoleonico una stagione di forte crescita del proprio ruolo sociale e soprattutto di forte relazionamento a una realtà sociale. Molti di questi funzionari lamentano la perdita all'interno dell'impero asburgico di un complesso operativo, di un progetto di sintesi, di intervento nella realtà giuridica, nella realtà statale, che si è perso con l'inglobamento nell'impero. Mentre per converso, durante l'età napoleonica, il legame tra funzionario e Stato, cioè tra coscienza di ruolo del funzionario e funzionamento dell'apparato di Stato, era estremamente saldo ed era estremamente produttivo. Per molti quei giacobini, come li ha chiamati Berengo, che confluirono nei ranghi dell'amministrazione napoleonica quando realizzarono che poteva essere un'esperienza concretamente più avanzata, quella anche di servire attivamente nei ranghi di un regime, pur con tutti i suoi limiti, uscito dalle riforme civili della Rivoluzione francese, per questi giacobini, durante il periodo invece del Formers lombardo-veneto, si realizzerà una completa frattura nei confronti del centro direzionale, cioè nei confronti di Vienna, vale a dire verrà meno quella collaborazione fattiva, operativa, che invece era stata salda durante gli anni napoleonici. E verrà meno, come ribadiranno anche nel 1859 gli uomini della commissione Giulini, una commissione incaricata di proporre un nuovo piano amministrativo per le province lombardo-venete da inglobare insieme al Piemonte per costituire il Regno d'Italia, verrà meno perché l'esperienza di molti anni ha dimostrato che le forme amministrative austriache forse possono essere progressive, vale a dire possono effettivamente incidere positivamente su un tessuto sociale arretrato in paesi come la Galizia. La Galizia, dico la Galizia perché è un raffronto che torna con impressionante frequenza nei rapporti dei funzionari lombardo-veneti che hanno una qualche conoscenza delle restanti province imperiali. La Galizia evidentemente come arretratezza sociale, come arretratezza del tessuto fondiario, come complessiva premodernità insomma di società. Se dunque le istituzioni amministrative austriache possono avere una qualche utilità per la Galizia, non possono averle per una società come quella lombardo-veneta, che è in un certo senso una periferia avanzata sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista istituzionale rispetto al centro, cioè rispetto a Vienna. Una periferia avanzata la cui società non può assolutamente più tollerare i lunghi tempi di transizione che una realtà come quella delle province ereditarie pur a stento riesce a sopportare. Una società che, avendo già conosciuto un'esperienza di concreta esecutivizzazione degli apparati, di concreta operatività dello Stato moderno, di concreta efficienza, tornando indietro opera una frattura netta col suo passato e avverte una mancanza, avverte un vuoto politico concreto che sarà compito poi delle nuove forze che emergono a indicare i programmi di distacco dall'Austria, sarà compito di queste forze in concreto indicare. Grazie, sì, avremo poi tempo della discussione. Questa relazione del professor Merigi ha senza dubbio offerto una grande ricchezza di spunti.